come va? Bene, tu? Bene, bene. Ciao. È 6 gennaio del 2021, pomeriggio. Fra qualche ora il Parlamento americano verrà preso d'assalto da una folla di seguaci di Donald Trump. Ma oggi è anche il mio compleanno e sono tornata a Pavia per salutare mio padre e mia sorella. Già che sono qua ho pensato di chiedere loro cosa si ricordano del mio coming out. Io ricordo che ti ho telefonato in Inghilterra e ti ho detto, Franca mi ha detto che hai un nuovo amore e tu mi hai detto, sì papà, la conosce la mia compagna di stanza, mi hai detto così. Mm-hmm. E io sono rimasto un po' lì, però non ti ho detto niente, no? Cioè, però subito dopo ho telefonato al mio più caro amico che è gay e gliel'ho detto, no? E lui mi ha detto, ma che cavolo c'è, che cosa vuol dire? Niente, è normale. Io ho detto, sì, sono normale, solo sono rimasto un po' lì perché non lo sapevo e non lo immaginavo. Mi ricordo che me l'hai detto un giorno che abitavamo insieme in via Paratici a Pavia, dopo che la mamma era mancata, e quindi dopo il 93. E tu me l'hai detto, ma per me non è stata una novità e ho accolto la cosa come una cosa normale. Io penso che, posso dirtelo, che te l'ho sempre, non te l'ho mai detto, ma penso che magari mi dai la conferma o meno, però è una che conosci ancora adesso. Secondo me da ragazzina ti piace un casino la Laura Milani. Sì, vedi? Sì. Vedi? Io lo sapevo. Perché, ma eri piccola, avevi 14 anni. No, sì, forse un po' più grande. No, non di più, 14-15 anni. Però ti piaceva la Laura Milani, sì, io l'avevo capito. È vero, Laura, mi piacevi molto. E ora, grazie a mia sorella, lo sai. Mi chiamo Sara Poma e questo è Prima, la storia della prima donna ad aver fatto un coming out pubblico in Italia. È la storia di come stavano le cose prima e di come, grazie al coraggio di alcuni e al sacrificio di molti, sono diventate più semplici, anche per me. Devo ammettere che ero prevenuta. Prima di fare loro questa domanda inaspettata fra il caffè e la torta che il compagno di mia sorella aveva preparato per me, ero convinta che avrebbero risposto con ricordi vaghi o magari con qualche situazione completamente rielaborata dalla memoria, essendo due persone, diciamo, creative quando si tratta di raccontare aneddoti o esperienze vissute. Invece la ricostruzione del mio coming out, vissuto dal loro punto di vista, è quasi corretta, direi. Per la precisione, a mia sorella lo dissi nel 1997, a pochi giorni dal mio ritorno dall'Erasmus in Inghilterra, dopo che mi ero fidanzata con una ragazza tedesca. La sua reazione al mio «ti devo dire una cosa» fu «ti piacciono le ragazze, vero?» con un tono assolutamente tranquillo che mi mise subito a mio agio e mi fece sentire il bene che mi voleva e che le volevo. Con mio padre non ci fu una telefonata, ma gli scrissi una lettera e lui mi rispose con una lettera piena d'amore in cui mi diceva sostanzialmente che l'unico modo per essere felici è essere se stessi e, cito, farsi guidare dall'amore. Mio padre è sempre stato molto romantico, a volte persino troppo. Mia madre non c'era già più, ma immagino che avrebbe avuto una reazione simile, probabilmente con meno pathos, ma comunque senza drammi. Spesso penso a quanto le sarebbe piaciuta mia moglie Lucrezia, che ha il suo stesso senso dell'umorismo. A mia nonna Carla, la protagonista del mio primo podcast, non l'ho mai detto ed è uno dei miei grandi rimpianti. Era già anziana e avevo paura di sconvolgerla, cosa che col senno di poi probabilmente non sarebbe successa. Prima di riprendere in mano la storia di Maria Silvia Spolato, dove l'avevamo lasciata, ho voluto raccontare un pezzetto della mia per ricordarmi che le cose a me sono andate bene. Non ho dovuto affrontare drammi, silenzi, pianti o addirittura reazioni violente. Cose che succedono anche oggi nel 2021, nonostante ci siano più diritti e più rappresentazione. Una cosa che oggi fortunatamente succede meno, anche se purtroppo non si può dire che sia sparita come pratica, è il tentativo di curare l'omosessualità, come se si trattasse di una malattia. Fino agli anni 70, all'epoca di questa storia, quella di Maria Silvia, era invece molto frequente. Addirittura in California, da Tascadero, nel tratto bellissimo che da San Francisco porta a Los Angeles, lo State Hospital, che tutt'oggi esiste, era stato soprannominato la Dachau per queers all'inizio degli anni 70. Articoli dell'epoca raccontano di trattamenti a base di droghe, elettroshock e vere e proprie torture ai danni dei pazienti gay, con l'obiettivo di trasformarli in eterosessuali. Del resto, fino al 1973, l'omosessualità sarebbe figurata nel DSM, il manuale diagnostico redatto dall'American Psychiatric Association, quello che ancora oggi cataloga i disturbi mentali. E solo nel 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha depennata dall'elenco delle malattie mentali. Perché parlo di questo? Perché sarà proprio il dibattito intorno a come la psichiatria e la psicoterapia trattavano l'omosessualità a scatenare la prima importante reazione organizzata di quelli che diventeranno i compagni e le compagne di lotta di Maria Silvia Spolato. Ma questo succederà nel 1971. Ora siamo ancora nel 1970. Maria Silvia si è stabilita a Roma, per la precisione a Rocca Priora, ai Castelli. Insegna a Frascati in un istituto tecnico, matematica e informatica, materia super innovativa per l'epoca. Quando non è a scuola è molto attiva nei giri femministi, ma presto capisce che l'agenda lesbica non è fra le priorità del movimento di liberazione della donna e che il discorso femminista dell'epoca è fortemente eterocentrico, focalizzato a combattere la visione della donna nella società borghese e cattolica, prevalentemente all'interno del matrimonio. Passa un anno e nell'estate del 1971 Maria Silvia decide che è importante creare uno spazio di discussione per le istanze delle donne non eterosessuali. Fonda così il FLO, il Fronte di Liberazione Omosessuale, che non è altro che la scritta che esibirà nella famosa foto di Campo dei Fiori un anno dopo, solo che la parola fronte risulta sbiadita, praticamente impercettibile. Forse perché nella realtà quel fronte è un'esperienza praticamente solitaria per Maria Silvia. L'esistenza del FLO è affidata a una serie di ciclostili che da sola stampa e spedisce in tutta Italia. Questo è il manifesto del FLO e mi colpisce per la sua modernità, per il linguaggio aperto, semplice e antiburocratico, soprattutto se lo si accosta a quello dei gruppi di militanza politica del tempo. Nel mese di agosto si è costituito a Roma il Fronte di Liberazione Omosessuale. Il fronte si allea naturalmente con tutti i gruppi che combattono contro i razzismi sociali, ideologici e sessuali. Noi siamo per la libera espressione della sessualità, così come ogni altro mezzo comunicativo della persona umana. Ci opporremo con tutti i mezzi alla violenza attuata dalla società repressiva contro l'amore fra le persone. Queste righe, scritte da Maria Silvia, sono il frutto di una visione che si è formata grazie alla scoperta di quello che stava accadendo fuori dai confini del provincialismo italiano. Nei mesi precedenti, infatti, si era spinta fino ad Amsterdam per incontrare Massimo Consoli, personaggio importantissimo per la storia del movimento LGBT italiano, ma di spicco anche a livello europeo. Consoli era diventato attivista già nel 1963, quando al liceo a Roma aveva formato un gruppo clandestino insieme ad altri studenti omosessuali ed era approdato negli anni successivi nei circoli anarchici della città. Nel 69 si era poi stabilito ad Amsterdam perché si dice, in quegli stessi giri anarchici, era diventato molto amico di Pietro Valpreda, il primo accusato della strage di Piazza Fontana, creduto in tutta Italia al mostro che aveva fatto saltare in aria la Banca Nazionale dell'Agricoltura, quando ancora le indagini erano indirizzate sulla pista sbagliata. In ogni caso, dalla sua nuova casa ad Amsterdam, Consoli prende contatti con le più importanti associazioni LGBT presenti in Europa e negli Stati Uniti. e finisce col diventare un importante studioso e archivista di riviste, saggi, manifesti, raccolti grazie ai suoi contatti internazionali. Contemporaneamente scrive su una rivista italiana chiamata Men, un rotocalco di costume ed erotismo la cui storia meriterebbe un altro podcast. Ecco, lo stesso Consoli racconterà molti anni dopo in uno dei suoi libri, Independence Gay, che Maria Silvia era una lettrice di Men, che era entrata in contatto con lui dopo aver letto un suo articolo sulla rivista e che gli aveva proposto di andarlo a trovare in Olanda per informarsi su come le comunità LGBT si stavano organizzando all'estero. La immagino allora mentre attraversa l'Europa in auto e arriva fino al cuore dei Paesi Bassi. Sappiamo, lo racconterà lei stessa anni dopo e tutti quelli che l'hanno conosciuta se lo ricordano, che girava con un maggiolone Volkswagen scassato, accompagnata da un cane nero arruffato di nome John John. Questa cosa mi crea un moto di affetto profondissimo, sia perché sono ossessionata dai cani, sia perché credo che John John sia un nome stupendo per un cane nero arruffato. In ogni caso, quel viaggio scaturirà nell'unico libro scritto da Maria Silvia, oltre a quello sull'insiemistica pubblicato da Zanichelli. Questo si chiama I movimenti omosessuali di liberazione e ne parleremo ancora nel prossimo episodio. Tutto questo succede nei primi mesi del 1971 e nella primavera dello stesso anno accade un episodio cruciale, la cosiddetta molla che mette in moto tutto e mette insieme Maria Silvia a un gruppo di ragazzi di Torino che si erano attivati per la stessa causa, quella della liberazione omosessuale, raccogliendo a loro volta adesioni da altre ragazze e ragazzi in altre città e con storie diverse alle spalle. La molla ha a che fare con un libro di psichiatria e un articolo apparso su un quotidiano, La Stampa, il 15 aprile del 1971. In quel giorno nasce ufficialmente il Fuori, il Fronte Unitario Rivoluzionario Omosessuale Italiano, ovvero il primo gruppo LGBT italiano a uscire allo scoperto, a cui si unì, da subito, anche Maria Silvia Spolato. Ah, okay. Sono andata a Torino a incontrare uno dei suoi fondatori, Angelo Pezzana. Ciao, sono Sara. Pezzana oggi ha 80 anni, sì. Ha fatto il libraio per tutta la vita. È presidente della Fondazione Sandro Penna Fuori ed è indubbiamente la memoria storica del movimento. Ma soprattutto ha vissuto e organizzato in prima persona molti dei fatti che racconto in questo podcast. Buongiorno, permesso. Oltre ad aver conosciuto Maria Silvia negli anni della militanza. Ci siamo incontrati nella sede della Fondazione. Un appartamento stupendo, con soffitti altissimi affrescati. Appena io e Francesco, il mio fonico, siamo entrati nella sala principale tappezzata di manifesti storici del Fuori, locandine di film a tema omosessuale e pubblicazioni rarissime, siamo stati accolti da Maurizio, il responsabile della fondazione, che aveva scovato per me una foto inedita di Maria Silvia, che non era mai apparsa in nessuna delle mie ricerche di questi mesi. Questa foto in cui c'è lei che distribuisce dei volantini con una mancella preciso, nera. Di preciso non so. Era una foto, diciamo, rubata a una manifestazione. Sicuramente. E poi arriva Angelo Pezzana, asciutto, elegante e felice di ricordare quei tempi, quelli del Fuori, a 50 anni esatti dalla sua fondazione. Buongiorno Angelo. Così ci conosciamo. Che bello finalmente conoscerti. Avete fatto... Sì, siamo arrivati un pochino in anticipo. Per ricordare meglio, mi dice, ha invitato anche un'amica, Anna Cuculo, compagna ai tempi del Fuori, che come Angelo, in quei primi anni 70, ebbe l'occasione di conoscere, anche se brevemente, Maria Silvia. Questa bellissima foto di Maria Silvia che non avevo mai visto. Ho comunque iniziato facendo una domanda ad Angelo. Mi interessava chiedergli della scintilla, il momento esatto in cui è iniziata l'avventura del Fuori. Sentivamo che bisognava fare qualcosa e l'occasione è stata quella della recensione sulla stampa di un libro pubblicato da Feltrinelli, oltretutto, un brutto libro di uno psichiatra, il quale gli avevano portato il loro figlio una coppia dicendo: dottore, nostro figlio ce lo guarisca. Lui fa: oh, io non ho problemi, io sono molto specializzato nell'argomento omosessualità. Lui ha deciso di trasformare le confessioni le sedute con questo ragazzo e farne un libro. Solo che ha cambiato il finale dicendo finalmente grazie alle mie teorie di terapia è diventato eterosessuale. E allora esce questo libro e la stampa lo recensisce. Chi l'ha recensito è uno psichiatra, ma per bene, era un mio cliente, io ho fatto libraio per molti anni. E io avevo questa piccola libreria che si chiamava Hellas e leggiamo questa recensione che aveva un titolo terribile. L'infelice che ama la propria immagine. Questa cosa è stata come un pugno nello stomaco. Allora uno legge quello, telefono, ma hai letto la stampa oggi questo titolo? Sì, anch'io, facciamo qualcosa. Insomma, ci siamo riuniti subito la sera a casa mia. Io abitavo in una mansarda piccolina sulla collina, però eravamo una decina, non di più. Cosa facciamo? E allora abbiamo detto, facciamo un movimento, perché c'è già in Europa e in altri paesi. Noi eravamo nel giugno 71 e lo facciamo anche noi in Italia, in fondo siamo tutti ma io faccio l'insegnante, non posso apparire pubblicamente. Che ti frega, prendi uno pseudonimo. Sì, ma come facciamo? E allora io, che ho sempre amato i giornali, giornali di carta, e loro ho detto facciamo un giornale, facciamo un numero zero di un giornale, perché fare una rivista, andare in edicola non avevamo i soldi. Mentre invece fare un numero unico, chiediamo a un po' di amici di fare gli articoli, e allora abbiamo detto, avevamo fatto una tiratura di 1000 copie. Poi, parlando tra di noi, cosa ne facciamo? Noi ne mandiamo piccoli pacchi da 10, 15, 20 agli amici che abbiamo in Italia. Insomma, abbiamo mandato tanti pacchi subito, per corriere, a questi nostri amici, naturalmente dicendogli cos'era. Ah, bene, ottimo, mi do da fare. Ma come fa? E tutti dire, ma come facciamo a distribuirlo? E allora io, che sono un po' diretto nelle cose, ho detto, senti, tu la sera vai a battere da qualche parte. Battere significava andare semplicemente cercarsi un partner per far l'amore. E allora, dove vai? Ma c'è quella montagnola dietro là alla piazzetta. Tu vai dove vanno tutti gli altri e gli dici, posso darti una copia di questo giornale? Ah, bene, bene. E l'hanno fatto tutti. E la cosa bella era che qualcuno diceva, però mi interessa questa cosa, ma la maggior parte dicevano, ma senti, non vedi che sto facendo il filo a quello lì, cosa mi vieni a raccontare? Quindi è iniziato anche con una carica di ironia, che non fa male in queste cose, perché guai a avere in mente solo l'ideologia, però ha funzionato, abbiamo diffuso per l'Italia. Dopo 2 mesi c'erano 40 gruppi fuori in Italia, naturalmente la sede era a casa di uno, a casa dell'altro, ed è nato così. Mentre mi racconta, Angelo sfoglia la prima copia del Fuori, che in prima pagina ha un gruppo di ragazze e ragazzi felici dietro a uno striscione. Adesso poi lo guardate, vedi? Sì, sì. Era scritto un problema di scottante attualità, l'infelice che ama la propria immagine. E questa era l'occasione, vedi, l'occasione di una rivoluzione, di un'azione rivoluzionaria. Chiaramente starei ore a farmi raccontare i dettagli di quei primi tempi e a sfogliare i primi numeri della rivista, su cui peraltro aveva scritto anche Fernanda Pivano, grande amica di Angelo. Ma cerco di essere pragmatica e di ricordarmi il motivo principale per cui sono venuta qui. Ricostruire quel pezzo di vita di Maria Silvia, attraverso chi l'ha conosciuta. Quindi chiedo ad Angelo e Anna se si ricordano come entrò in contatto con il Fuori. E soprattutto che tipo di persona era. È entrata nel Fuori di Roma, il movimento Fuori di Roma, e naturalmente essendo una figura anomala, lei viveva con una Volkswagen malandata, con due animali dentro, dormiva sotto i ponti anche, perché era in macchina. E anche in macchina. Sì, sì. Ce l'ho proprio ben presente, perché eravamo vicino alla Hellas quando io l'ho vista per la prima volta arrivare col suo catorcio, il Volkswagen maggiolino credo, era proprio malandato. Maggiolone era, ecco. E ho conosciuto i cane e il gatto, non ricordo i cani, se era un cocker. Il cane e altri non è che John John. Il gatto è una presenza nuova che scopro in questo momento. Insomma, vivevano nell'auto tutte e tre, il cane, il gatto e lei. Era una persona tanto di grande intelligenza, fantasia e di cultura, cioè una persona con la quale potevi stare a parlare un sacco di tempo. Quando ho iniziato a interessarmi alla figura di Maria Silvia Spolato, mi sembrava tutto molto chiaro. Lei era una militante di ferro, pensavo, pronta a perdere tutto per la sua causa. Ecco, sono sicura fosse anche questo, certo, ma più vado avanti, più emergono degli aspetti inediti della sua personalità. Aspetti che mi fanno pensare che questa storia non sia così lineare come sembrava all'inizio. Sia Angelo che Anna mi raccontano che Maria Silvia viveva in una specie di mondo solitario e fantasioso e che persino in quel contesto, lontano dai canoni tradizionali, lei era decisamente fuori dalle righe. La follia ha tanti aspetti, ma c'è anche l'aspetto interessante, coraggioso, no? Dice, ma sei matto quando uno fa una cosa importante? Ecco, lei era sempre così, un po' matta perché poteva fare qualunque cosa. E essendo lì a Roma ha cominciato a frequentare il gruppo fuori e poi voleva collaborare e scrivere, perché scriveva anche bene. E poi le cose che si dicevano di lei, nessuno sapeva con esattezza chi era. Lei aveva il solito l'eschimo verde che stava in piedi da solo, ecco. E la cosa che ci ha colpito molto, mi piace ricordarlo proprio chiaramente, dice: noi dobbiamo fare subito una battaglia contro una medicina che è stata data dagli psichiatri ai genitori per darla ai figli, che si chiama Tacitin, quindi taci, non pensare. È una cosa mostruosa, e noi tutti, certo, figurati. E qui c'è anche proprio l'articolone di due pagine sul Tacitin. Ma siamo andati avanti a pensarlo, no? Ma nessuno di noi gli era venuto in mente di andare in farmacia e dire: vediamo chi lo fa, la casa produttrice, eccetera. Poi abbiamo chiesto: ma Tacitin? Ma non esiste una medicina del genere. Lei l'aveva totalmente inventato, dimostrando una grande fantasia, perché inventare una cosa del genere ha anche un certo valore letterario. E poi era talmente simpatica, perché la follia ha degli aspetti magnifici, ma lei era follia nel senso più letterario, perché non era una che si credeva Napoleone. No, era lei. Lei faceva tutte le cose perché ci credeva. Dopo questo aneddoto di Angelo sono andata a controllare e nel numero zero del Fuori appare effettivamente l'articolo di cui parla. A onor del vero sembra che Maria Silvia abbia preso la notizia del Tacitin da un altro scritto pubblicato su una rivista dello stesso periodo, chiamata La Comune. E grazie alla tecnologia che oggi abbiamo a disposizione, una semplice ricerca su Google mi rivela che il Tacitin esiste ed è classificato come benzoactamina, una specie di ansiolitico. Quello che mi interessa non è tanto il fact-checking su una notizia di 50 anni fa, ma il fatto che quello che rimane di Maria Silvia nei racconti di chi l'ha conosciuta sia soprattutto il suo aspetto trasandato e un po' matto, e quindi anche le cose che ha detto, scritto, fatto si portano dietro quell'aura di surrealismo. In ogni caso, una cosa che resta di lei è l'affetto con cui chi l'ha incontrata anche per poco la ricorda. Era di una gentilezza infinita e con noi stava bene da morire. Non l'ho mai vista né venire con un'amica, con una cosa che invece, insomma, è normale, no? Lei non viveva con nessuno, okay, né donna né uomo. Okay. Però era talmente esuberante nelle cose che pensava, che diceva, che a tutti piaceva, era un piacere stare con lei. E non ha mai avuto un amore, una fidanzata, che io sappia, no. No, nel modo più assoluto. Sembra proprio una figura molto evanescente, no? Che tutti si ricordano, ma che nessuno è riuscito mai ad afferrare. Aveva una personalità fortissima. Ed era bello stare con lei. Per Angelo, per Anna, per Maria Silvia e per molti delle loro compagne e compagni, il coming out privato ha coinciso con quello pubblico, rumoroso e rivoluzionario del movimento che avevano creato. È facile immaginare che i genitori, i datori di lavoro e gli amici d'infanzia di molti di loro abbiano appreso della loro omosessualità nel momento in cui li hanno visti scendere in piazza o apparire su qualche giornale che li definiva degli agitatori o dei malati. Non c'è stata per molti di loro la possibilità che ho avuto io di trovare il momento giusto, guardare in faccia mia sorella o scrivere una lettera a mio padre. Io non ho dovuto mettermi un cartello al collo o pubblicare un giornale per dimostrare che esistevo e che tutte le cose che venivano dette su di me, su quelle e quelli come me, erano prive di senso, sbagliate e dolorose. Io non ho dovuto rischiare niente. Ma in quel 1971, nonostante i pericoli, gli sfottò e persino le botte che sarebbero venute di lì in poi, l'avventura per Maria Silvia e i compagni del fuori era appena cominciata. Prima è una produzione di Spotify Studios in associazione con Cora Media. Executive producer Jacopo Penzo. La cura editoriale è di Ilaria Orru con il supporto di Alessio Olivieri. Registrazione, sound design e musiche di Francesco Ferrari per Frigo Studio. Il fonico in presa diretta è Francesco Cego per Frigo Studio. La sigla originale è stata scritta e suonata dai Berlinist. Grazie alla Fondazione Sandro Penna, Fuori, e grazie a Emanuela Colli per aver prestato la voce a Maria Silvia.